Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, 10 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa nuova puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiremo dal governo, dalla legge finanziaria. Oggi c'è stato un incontro importante all'interno della maggioranza e quindi la consulta economica del PDL che presente il ministro dell'economia Giulio Tremonti. Ha esaminato le varie richieste dei ministeri, Tremonti ha ribadito la sua linea del rigore, pur promettendo una riforma del fisco entro la legislatura, ma insomma ballano, come si dice in gergo non economico, 15 miliardi, nel senso che le richieste arrivate dai vari ministeri sono pari a 25 miliardi. I fondi a disposizione sono al massimo di 10 miliardi, ma sono già tutti prenotati per altri capitoli di spesa, mentre appunto 25 miliardi la somma che si ottiene guardando le richieste del Ministero dello Sviluppo Economico, Lavoro e Salute, Ambiente, il tratto dell'ambiente è quello che subisce i tagli più pesanti, interni, istruzione, infrastrutture. Ne parleremo in apertura per quello che riguarda la legge finanziaria e le richieste che arrivano dai ministeri, con il tema di fondo che resta, visto che anche oggi c'è un nuovo botta e risposta del ministro Brunetta e ministro Tremonti, resta la domanda di fondo: si può avere una politica del rigore sui conti pubblici e quindi non sforare, ma allo stesso tempo avere una politica per lo sviluppo, come ha chiesto anche ieri di nuovo la presidente di Confindustria Marcegaglia e come chiedono anche altri soggetti di questo paese? Il sentiero è stretto, ma non è detto appunto che non si possa riuscire ad avere le due cose. Ne parliamo, dicevo, in apertura. 349-238-6666 per i vostri sms. Per quello che riguarda i mercati, il rialzo dello 0,25% a Milano, dello 0,70% a Parigi, mezzo punto percentuale il recupero di Francoforte, Londra più 0,7%. Tra i titoli molto bene oggi Mediaset più 4,3%, Campari più 1,20%, l'automatica più 1%, come Terna lo 0,80% e rialzo di Eni, Generali più 0,6%, Bulgari mezzo punto percentuale di rialzo come Telecom ed Enel e anche Intesa San Paolo. Chi perde? Exor meno 2,4%, Fiat meno 1,5% come Impregilo, Parmalat più, meno 1% come Mediobanca, Autogrill meno 0,8%, Ubibanca meno 0,75% come Italcementi, Unipol meno 0,6% come Luxottica, mezzo punto percentuale lo perdono Estimarco Electronics, Fondiaria Assai e il Banco Popolare. Gli altri temi che toccheremo, oltre a quelli che vi ho ricordato, sono l'accordo che è arrivato tra il gruppo bancario Intesa San Paolo e il mondo dell'agricoltura rappresentato da Confagricoltura. Il settore dell'agricoltura vive un periodo difficilissimo, molte volte ne abbiamo parlato, prezzi alla produzione crollati del 20%, contadini che producono delle volte sotto il livello di costo, e questo è un fronte. L'altro fronte riguarderà invece una buona notizia, perché noi salutiamo sempre con favore quando due gruppi italiani annunciano una fusione, e la fusione in oggetto è quella tra il gruppo di costruzione Todini e il gruppo di costruzione Salini, e assieme genereranno il terzo gruppo italiano nelle costruzioni dopo Impregilo e Astaldi, e avranno praticamente un fatturato intorno al 1,2 miliardi con un portafoglio di ordini di 6 miliardi e 15.000 dipendenti complessivamente. Ne parleremo nella seconda ora del programma con il presidente del gruppo Todini, Luisa Todini. Basta con le notizie e con le anticipazioni, le notizie in breve adesso, e poi parliamo di PIL e manovra finanziaria. Al di là delle richieste arrivate dai ministeri, oggi c'è una notizia che ci ha lasciato molto molto perplessi, anche di questo parleremo in apertura. Il numero uno del Fondo Monetario Internazionale, Dominique Strauss-Kahn, ha detto oggi che probabilmente il 50% di tutte le perdite bancarie, quindi di tutti i prodotti bancari di carattere tossico, come si chiamava una volta, non sono ancora stati denunciati dai gruppi bancari. Ora la cifra fa spavento, perché insomma, è un anno e mezzo che ragioniamo di perdite bancarie, di investimenti rischiosi, di investimenti fatti in maniera scriteriata, senza pensare e valutare le conseguenze. Insomma, se il numero uno del Fondo Monetario dice che il 50% delle perdite delle banche a livello mondiale potrebbe ancora essere nascosto nei bilanci, la cosa ci lascia quanto mai perplessi. Il petrolio a $76, l'oro che vola ancora record, $1176 all'oncia, anzi 1180 ha fatto poco fa sia a Londra che a New York, ennesimo record quindi dell'oro. Anche qui non si riesce a capire, o meglio non si vuol dire forse fino in fondo, il perché l'oro continui a salire in questo modo. I sussidi della disoccupazione americana invece vanno bene, perché sono stati 466.000 la settimana scorsa le richieste di sussidio alla disoccupazione, il livello più basso da settembre 2008, quindi un dato migliore delle stime di ogni analista. E anche la spesa personale dei cittadini americani, altro dato molto importante, sta migliorando più delle attese, più 0,7%, tant'è che l'indice sulla fiducia dei consumatori americani, misurato dall'Università del Michigan, come sempre, è salito a 67,4 punti. E anche le vendite di nuove case in America tornano a salire, più 6,2%. Quindi, nonostante una correzione operata ieri sull'andamento del PIL americano dal 3,5% al 2,8%, i dati che arrivano oggi di carattere congiunturale sono tutti positivi. A chi già ce lo chiede al 349-238-6666, parleremo tra un attimo dell'accordo tra Intesa San Paolo e Confagricoltura, 1 miliardo di euro per il rilancio del settore. Ancora, per quello che riguarda i dati italiani, le vendite al dettaglio in Italia sono diminuite a settembre dello 0,1% e meno 1,6% rispetto all'anno prima. La cosa interessante è che calano nei consumi molto più i generi non alimentari che quelli alimentari. Anche in Italia però la fiducia dei consumatori continua a crescere, l'indice ISAE, che la misura ogni mese, tocca i 112,8 punti, siamo al massimo dell'anno, e quindi un andamento insomma che è in linea con quello che sta capitando, seppur lentamente, nel resto d'Europa. Per quello che riguarda invece la fabbrica della Fiat a Termini Imerese, lunedì saranno convocati i sindacati dal ministro Scajola. Per quello che ha a che fare invece con la privatizzazione di Tirrenia, altro tema che vorremmo prima o poi affrontare, abbiamo cercato l'attuale numero uno più volte ma senza successo, l'attuale numero uno di Tirrenia, Pegorini. Dicevo, il governo punta a completare la privatizzazione di Tirrenia per il settembre del 2010, lo ha spiegato oggi il ministro dei trasporti Altero Matteoli. Infatti a giorni verrà pubblicato il bando per le manifestazioni di interesse ad acquisire la holding Tirrenia e la flotta regionale siciliana, la Siremar. C'è poi la parte che riguarda le altre tre flotte regionali, dove si sono raggiunti accordi per il trasferimento alle rispettive regioni, cioè la Torremar in Toscana, la Caremar in Campania e la Saremar alla Sardegna, tutte nell'orbita appunto del gruppo Tirrenia. Allora, queste le notizie in breve, 349-238-6666, partiamo con il primo tema, alla luce anche del dibattito sulla finanziaria, si riesce a coniugare rigore e sviluppo, oppure è uno ossimoro in questo paese pensare di tenere sotto controllo i conti, altrimenti sarà difficile rifinanziare i 200 miliardi di BOT e BTP che ogni anno dobbiamo rifinanziare per il nostro debito, ma allo stesso tempo operare con iniziative che rilancino anche l'economia e non quindi aiuti a pioggia, parcellizzati, tutti dispersi in mille rivoli di cui poi nessuno si accorge. Questa è la domanda di fondo. Intanto però ci colleghiamo subito con il nostro Vincenzo Miglietta, che sta seguendo la riunione della Consulta economica del Popolo della Libertà a cui partecipa il ministro Tremonti. Vincenzo, buonasera. Buonasera ai nostri ascoltatori. Dicevamo, 25 miliardi se si sommano tutte le richieste di finanziamento che sono arrivate dai vari ministeri, contro 10 miliardi disponibili, ma tutti già prenotati, perché un miliardo serve a Roma Capitale, un miliardo per la giustizia e sicurezza, mezzo miliardo per l'università, un altro mezzo miliardo per i militari all'estero, un altro mezzo miliardo per l'autotrasporto, poi ci sono 380 milioni per i 5 per 1000, altri fondi servono per i libri scolastici gratuiti, per l'ANAS e le ferrovie. Tensione dentro la Consulta economica? La consulta sta per terminare, sono rimasti qui in via dell'umiltà il ministro Tremonti con il capogruppo Cicchitto e il coordinatore Verdini, sono andati via il ministro La Russa e i coordinatori e i capigruppo Quagliariello e Gasparri. Mi è parso di capire dai pochi commenti che sono stati rilasciati che una certa tensione c'è. Dicevi giustamente da studio il grande impegno da parte del governo per coniugare rigore e sviluppo, dibattito di questi giorni. Il capogruppo Quagliariello ha garantito che non ci sarà alcun assalto alla diligenza, ma evidentemente le richieste da parte dei deputati della maggioranza sono molte, quindi in questo momento Tremonti sta cercando un attimino di tirare le somme di quanto ha a disposizione proprio per cercare di non creare ulteriori malumori all'interno della maggioranza. È emblematico il fatto che siano andati via tutti i rappresentanti dell'ex Alleanza Nazionale, sono rimasti le parti fondamentali di Forza Italia, se così vogliamo definire Tremonti, Verdini e Cicchitto, quindi sicuramente in questo momento si stanno guardando un po' i conti per vedere quello che si può fare. Sì, a quello che ci risulta il Ministero dello Sviluppo Economico, quindi il Ministro Scajola, avrebbe chiesto 5 miliardi e 2, di cui 1 miliardo e mezzo per la riedizione del credito d'imposta, 1 miliardo per il sostegno all'innovazione e l'avvio dell'agenzia per il nucleare, 1 miliardo di incentivi auto e altri prodotti, 800 milioni per la banda larga, quelli famosi che furono sospesi dal CIPE, lavoro e salute, 4 miliardi e 100 milioni, ministro del lavoro e salute, quindi ministro Sacconi, 2 miliardi e mezzo di rifinanziamento del patto salute, 500 milioni fondo anziani non autosufficienti, 1 miliardo e 2 il pacchetto lavoro, ancora Ministero delle Infrastrutture, Ministro Matteoli, 3 miliardi di richieste, 1 miliardo e 8 per la legge obiettivo, 1 miliardo la difesa del suolo, Ministero degli Interni, Ministro Maroni, 1 miliardo per recuperare i tagli decisi in precedenza, istruzione, Ministro Gelmini, 1 miliardo e mezzo, ambiente, Ministro Prestigiacomo, 2 miliardi e 700, di cui 1 miliardo e mezzo per gli obiettivi di Kyoto e 1 miliardo per la difesa del suolo. Tra l'altro proprio il Ministero dell'Ambiente ha avuto i tagli per ora più pesanti. I fondi che ammontavano 1 miliardo e 6 nel 2008 sono scesi a 1 miliardo e 2 nel 2009 e scenderanno a 737 milioni nel 2010, nel 2011 a 590 milioni, nel 2012 a 570 milioni. Se si va avanti così poi scompare anche il Ministero dell'Ambiente, perché insomma arrivare a un terzo dei fondi in 3 anni non è male come dotazione. Grazie Vincenzo Miglietta. Nel frattempo, mentre il Presidente della Camera Fini dice non verrà messa la fiducia o mi troverai in imbarazzo a mettere la fiducia su un maxi emendamento del governo, continua lo scambio, così il duettare di Fioretto tra il Ministro Brunetta e il Ministro Tremonti. Oggi Brunetta risponde a Tremonti, dice sono altri dottore Stranamore, ci sono tante riforme che si possono fare che non costano ma fanno risparmiare. E poi il cambio di passo del governo nelle cose, e Tremonti ha perfettamente ragione, io sono più rigorista di lui, ma anche con rigore si può fare sviluppo, io queste cose le conosco, Tremonti no, perché non è un economista. Ci sono moltissime riforme che non solo non costano, ma che fanno risparmiare, e sono le riforme di modernizzazione, e io mi vanto di aver fatto in questo anno e mezzo di governo riforme di semplificazione, riforme che producono risparmi, riforme che fanno funzionare meglio la pubblica amministrazione. Altri sono gli Stranamore. Io quello che sto dicendo è che il cambio di passo richiesto da Emma Marcegaglia è nelle cose, e cioè noi abbiamo gestito molto bene la fase di crisi, dobbiamo gestire altrettanto bene la fase della ripresa, dobbiamo accompagnare altrettanto bene la ripresa. Io penso che il governo sia assolutamente in grado nella sua collegialità di fare questo. Beh, se è ripartito se ne discute oggi. Se ne discute oggi, ma non c'è né Frattini né sottoscritto, il partito è il partito. E in sede di Consiglio dei Ministri sarà bene discuterne. Ecco. Quindi insomma, si correggono un po' i toni, ma resta anche come approccio economico, come approccio di governo politico, quindi di politica economica e oserei dire anche accademico, una differenza tra un'impostazione che alcuni chiamano di sviluppo e quell'altra impostazione che altri chiamano di rigore. Siamo in collegamento con il professor Francesco Giavazzi, che insegna economia e politica alla Bocconi di Milano, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera professor Giavazzi. Buonasera. Allora, come, la domanda è molto semplice, come si tiene assieme il rigore nei conti pubblici e però la necessità di intervenire con politiche di stimolo sull'economia? Sembra, diciamo, un gioco a somma zero: se fai una cosa non ottieni l'altra. Abbiamo detto che ci sono richieste di finanziamento dei vari ministeri pari ai 25 miliardi di euro con soli 10 miliardi di euro a disposizione. Da un lato si torna alla polemica con il ministro Tremonti, il partito del rigore, e dall'altra parte il partito della spesa, e non solo il ministro Brunetta ma anche l'economista e senatore Mario Baldassarri. Ha ragione chi dice che bisognerebbe in qualche modo andare oltre il deficit e così l'ortodossia sui conti pubblici? Allora, secondo me ha ragione, ma non nelle modalità in cui sono state fatte le richieste. Cioè, il rigore sui conti pubblici è una questione di medio periodo, cioè non ha senso guardare a cosa accade domani mattina. Bisogna chiedersi se il debito pubblico che abbiamo è sostenibile nell'arco di 2 o 3 anni. Secondo me la cosa cruciale da fare non sono maggiori spese, anche se questi 25 miliardi sono tutti individualmente giustificati, ma il punto cruciale è ridurre la pressione fiscale che è in questi anni è molto aumentata. Quindi lo spazio che c'è o che bisogna darsi è uno spazio per la riduzione delle imposte, soprattutto le imposte del lavoro, sia quelle che cadono direttamente sui lavoratori sia sul lavoro visto come impresa, e quindi io continuo a pensare l'IRAP. Questa è la cosa da fare. Siccome io penso che un minor carico impositivo sul lavoro vuol dire più incentivo a lavorare, a investire, vuol dire più crescita, anche se una riduzione fiscale si accompagnasse nel prossimo anno a un temporaneo peggioramento del deficit, poi ci mette su un sentiero di crescita più elevato. Invece queste spese minuziose che avvengono, minute che avvengono, sono sempre chieste gli ultimi momenti della finanziaria, non vedo come ci farebbero fare un salto di qualità. Quindi, se ho ben capito, lei, professor Giavazzi, è per un intervento massiccio, non appunto 25 miliardi distribuiti in vari rivoli ministeriali, ma un intervento massiccio. Due obiezioni. La prima, siamo sicuri che una riduzione delle tasse, IRPEF e IRAP, possa portare a un aumento del PIL? Cioè, il timore è che, vista l'incertezza futura, i soldi risparmiati vengono messi sotto il materasso, metaforicamente, quindi non entrino in circolo poi come domanda interna. Beh, insomma, qui bisogna chiedere, se noi pensiamo che questo paese è finito e allora nessuno più investe, tutti se ne vanno fuori d'Italia, oppure pensiamo che questo paese abbia una chance, però bisogna creare le condizioni perché abbia una chance. Secondo me la condizione cruciale oggi è una minore tassazione, oltre sempre le stesse cose, la burocrazia eccetera, ma la minore tassazione è il punto di partenza. Perché invece non la convince la proposta che citavo prima del senatore Baldassarri, che insomma complessivamente vorrebbe ottenere 37 miliardi tra minori tasse e spese in infrastrutture, dicendo tra l'altro che per lo più verrebbero finanziate da tagli alla spesa pubblica amministrazione improduttiva, inefficiente? Quello che la proposta del senatore Baldassarri, diciamo, è condivisibile sul lato, diciamo, delle maggiori spese, anche se io accentuerei più la riduzione fiscale che non le infrastrutture. Dove ci sono più dubbi è sul fatto che si possa finanziare tagliando la spesa corrente, perché questa è una cosa che si dice, poi quando uno va a vedere per esempio lo stato delle nostre scuole, delle nostre università, si chiede dov'è la spesa corrente. Certo, ci sono molti sprechi, però ci sono anche molti servizi che lo Stato offre che sono arrivati all'osso, ci sono i poliziotti che non hanno i soldi per girare con l'automobile, quindi il fatto che si possa lì portare a casa 30-40 miliardi di risparmi mi sembra un pochino un'illusione. Se ho ben capito, sul ragionamento lei dice va bene tenere rigore sulla spesa pubblica, però essendo il rapporto deficit-PIL o debito-PIL un rapporto, se il denominatore, il PIL, continua a non ripartire, tu puoi controllare quanto vuoi la spesa, ma il rapporto continua a salire, ho capito bene? Esattamente, e questo è esattamente il punto, cioè non c'è quando i paesi sono trovati in una situazione di alto debito, ci sono stati tre modi in cui i paesi sono, nella storia sono ritornati da indietro da un alto debito, o con l'inflazione, che noi non ce la possiamo, fortunatamente non la possiamo più fare, o con un default sui titoli di Stato, e anche questo spero che non lo si voglia fare, oppure con la crescita. Non c'è mai nessuno che è rientrato dall'alto debito tassando di più, perché tassando di più ha l'illusione di aumentare le entrate, ma aumenta le entrate su un PIL che va a picco perché gli incentivi sono poi a lavorare e a investire di meno, e il rapporto anziché scendere va su. E uscire da questa situazione invece tenendo ferma la spesa, o perlomeno se non si riesce a tagliarla come cerca di fare il ministro Tremonti, non allargarla, secondo lei rischierebbe di produrre lo stesso effetto, cioè si controlla la spesa complessiva, ma il PIL continua a non crescere, quindi il rapporto spesa, deficit, PIL continua a aumentare? Beh, sicuramente noi spendiamo il 40-45% del PIL, ci sono moltissime aree che si possono ridurre. Vedo invece che il ministro dell'economia va nella direzione opposta, quando vuol finanziare in parte con denaro pubblico una banca del sud, non vedo una direzione di ridurre la spesa, vedo la direzione contraria. Allora, fermo restando che la crescita, se ho ben capito il suo ragionamento, ci vuole, perché per migliorare questo maledetto rapporto deficit PIL o debito PIL bisogna lavorare sul denominatore, aumentando il denominatore, e quindi ti puoi permettere a parità di deficit un risultato migliore, e anche a parità di debito un risultato migliore. Lei dice tagliare IRPEF e IRAP. Temo che in questo modo comunque non si riesca a gestire solo accettando un deficit più alto. Le sembra ipotizzabile una tassa sui redditi più alti, o una tassa così, una tantum, per finanziare una manovra del genere? No, io credo che bisogna avere il coraggio che queste cose si fanno credendoci e anche facendo crescere temporaneamente il deficit. E che se si può, bisogna fare quello che dice Baldassarri, cioè cercare di raschiare là dove si può raschiare. Per esempio, si poteva evitare di buttare via i soldi con Alitalia. E bisogna tagliare sul lato della spesa quel che si può tagliare, però avere il coraggio di dire: io elimino l'IRAP, riduco le aliquote sul lavoro, perché penso che questo ci farà crescere di più. Ancora due domande per lei, una brevissima. Questa polemica, anche oggi abbiamo sentito, insomma, Brunetta dice a Tremonti non è un economista, ieri è stato in qualche modo, era riferito a lui l'appellativo di dottor Stranamore, cioè, lei ritiene che vi sia anche una reale differenza di approccio accademico, cioè uno più da economista, l'altro più da giurista? Molto semplice. Il professor Brunetta è un economista che ha superato un concorso di economia politica, che ha lavorato all'Ocse, l'economia la conosce. Il professor Tremonti è un giurista, dopodiché uno può avere un bravissimo giurista, però non è un economista. Quindi se uno chiede chi ha studiato l'economia, è il ministro Brunetta, non è il ministro Tremonti. Ma questo poi concretamente nell'attività di governo, secondo lei, ha una sua influenza? Perché insomma, oppure certo, perché secondo me, per avere questa visione macroeconomica di cosa bisogna fare per smuovere il paese, credo che una preparazione economica aiuta. Ma sì, su questo torneremo anche dopo il metro pubblicità, anche perché resta in sospeso quanto ricordavo, che nulla c'entra con i casi di casa nostra, e cioè invece l'allarme lanciato dal presidente del Fondo Monetario Dominique Strauss-Kahn, che ha detto metà delle perdite bancarie potrebbero ancora essere nascoste nelle pieghe di bilancio. ...17:40 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Fra poco commenteremo la chiusura di borsa abbastanza neutra a Milano, più 0,15%, meglio sicuramente a Parigi, più 0,60%, come Francoforte, Londra più 0,75%, l'America più 0,50% in questo momento, dopo dati più che positivi arrivati a livello congiunturale dagli Stati Uniti. Euro a quota 1,50,82, quindi molto forte la moneta unica. Vorrei concludere la nostra intervista con il professor Giavazzi, perché al di là delle appunto approcci, abbiamo capito che insomma lei dice no, occorre anche dimenticarsi per un po' del deficit e continuare a puntare su una riduzione di IRPEF e IRAP, perché così riparte il PIL e ne va in miglioramento anche il rapporto deficit-PIL. Vorrei adesso concentrarmi, professor Giavazzi, sulla seconda notizia di oggi, e cioè il numero uno del Fondo Monetario Internazionale, Dominique Strauss-Kahn, che dice, direttore generale del Fondo Monetario, il 50% delle perdite delle banche a livello mondiale potrebbe essere ancora nascosto nelle pieghe di bilancio. Ora, siccome è più di un anno che stiamo parlando di questa cosa, di banche che hanno assunto rischi impropri, sconsiderati, prodotti che nemmeno hanno capito, che sono circolati come asset tossici in tutto il mondo, come è possibile? Beh, innanzitutto Dominique Strauss-Kahn è stato diplomatico, perché il 50% è una media in tutto il mondo, ma se uno va a vedere quel documento che si chiama il Financial Stability Board, che è in prima pagina sul sito del Fondo Monetario Internazionale, c'è un grafico illuminante a pagina 10, che credo pagina 10, che mostra questi dati per l'Europa e per gli Stati Uniti, dove si vede che negli Stati Uniti 2/3 delle perdite presunte dei bilanci delle banche sono stati riconosciuti, mentre in Europa è stato riconosciuto un po' meno della metà. Poi quel grafico non consente di separare la Gran Bretagna dal resto dell'Europa. Io penso che se lo si facesse si vedrebbe che la posizione del resto dell'Europa è ancora più lontana da quella degli Stati Uniti. Quindi non solo c'è un problema aggregato, ma c'è un problema di diversità fra le banche europee e quelle americane significativo. E io credo che il fondo, quando fa queste cose, cerca di farlo con tutte le informazioni possibili, quindi dubito che siano numeri inventati. Quindi lei ci sta dicendo attenzione, perché in questo momento l'America ha fatto più pulizia, le banche americane hanno fatto più pulizia di quelle europee, e quelle europee sono, continentali, sono messe anche peggio come pulizia e trasparenza rispetto a quelle britanniche. Infatti mi sembra che sia di oggi o di ieri la notizia che il governo tedesco è intervenuto massicciamente per aiutare una grande banca di quel paese. Sì, ecco, la domanda però resta, cioè come è possibile? Abbiamo attraversato, stiamo attraversando una crisi epocale dovuta a banche che avevano fatto investimenti non trasparenti, assumendosi un rischio improprio, ormai lo diciamo da mesi, non voglio più ripetermi. Stiamo a novembre, a fine novembre, ancora a dire che i 2/3 forse della robaccia. Se lei guarda quello che è accaduto negli ultimi 15 anni in Giappone, le banche giapponesi ci hanno messo 10 anni a riconoscere le perdite che avevano accumulato negli anni 90, perché credo che nelle banche c'è un naturale incentivo a dire questa impresa va temporaneamente male, però poi si aspetta le cose andranno meglio e quel credito tornerà in bonus, cosa che può essere possibile, perché non è che tutte le perdite stimate poi dopo si realizzano, può darsi che l'economia si riprende, quelle perdite non si realizzano, quindi credo che soprattutto sui crediti a medio e lungo termine questo si verifichi. Detto ciò, qualcosa non sta funzionando, perché insomma, i mercati hanno conosciuto una crescita impetuosa da marzo, siamo più 50, più 40, da inizio anno più 20%, abbiamo visto trimestrali delle banche d'affari americane, ma non solo, anche quelle europee, anche quelle italiane, tornare in ampio utile, nel caso di quelle americane farlo soprattutto con strumenti di trading, ma penso anche quelle europee non siano da meno. Insomma, cioè, mi sembra che tutti siano tornati a fare il lavoro la festa, gabbato lo santo. Ci sono due osservazioni. Prima, i grandi profitti delle banche derivano anche dal fatto che in quell'industria la concorrenza è molto diminuita, no? Ci sono molto meno banche di quante ci fossero prima e quindi è più facile fare i profitti perché la rendita è più elevata. Secondo, io credo che i segnali, soprattutto dell'economia americana, sono molto, molto positivi. Nonostante la revisione di ieri, dice? Ma sì, perché quello riguarda il passato, no? Il terzo trimestre, ma se lei guarda i leading indicators che sono usciti venerdì, i leading indicators sono da marzo che tutti i mesi continuano a salire, e quello è un indicatore solitamente abbastanza accurato di quello che sta accadendo, quindi bisogna guardare avanti, non bisogna guardare indietro. E allora perché lei scrive ieri sono mercati o case da gioco? Cioè, c'è qualcosa che non sta funzionando più che nei gruppi bancari, nei mercati azionari? Insomma, questa ripresa tutti dicono che sarà lenta, in Europa soprattutto, difficoltosa, accidentata, non priva di pericoli, con una disoccupazione che andrà al 10% l'anno prossimo, deficit spesso che devono essere riportati sotto controllo. E perché allora lei dice sono mercati o case da gioco? Diverse. Io penso che la ripresa nell'economia reale sarà più rapida di quello che si pensa, oh, e bene, che i mercati non sono esuberanti, stanno semplicemente scontando una ripresa che sarà più rapida. Diverso è il punto sul cambiamento delle regole, cioè la grande delusione è che i governi non fanno nulla per cambiare quelle regole di cui ormai, se uno guarda i documenti del Financial Stability Forum, l'elenco delle cose da fare, io citavo per esempio il trasferire su mercati organizzati come l'MTS, molte transazioni ad esempio dei derivati, di queste cose qua non si parla, quindi non è un problema della crescita, è un problema che i governi hanno perso l'entusiasmo, la voglia, quello che lei vuole per fare queste cose, e la prova è il congresso americano, dove anziché cominciare a fare qualcosa sulle banche si attacca all'indipendenza della Fed, che è un modo per indebolire, non per rafforzare il sistema. E più il problema sarà distante, temo, meno si interverrà in maniera forte e delle volte anche coercitiva con nuove regole sui mercati finanziari. Vabbè, staremo a vedere. Grazie Francesco Giavazzi, editorialista del Corriere della Sera, economista dell'Università della Bocconi di Milano. minuti, mercati finanziari dunque, dicevo, giornata abbastanza neutra oggi a Milano, meglio altre borse europee e anche l'America più 0,4%, con un euro che si mantiene molto forte, quasi a quota 1,51 sul dollaro. Milano più 0,15%, come sempre il commento con Radio Cori sulle 24 ore. Leonora Micheli, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Mediaset più 3,5%, Campari più 1,4%, Bulgari più 1%, Lottomatica più 0,90%, Generali più 0,80% come Eni ed Enel, lo 0,7% lo guadagna Geox, ma anche Terna, 0,5% Atlantia, lo 0,3% Telecom e Pirelli. Chi più perde? Exor meno 2,70, Fiat meno 1,60 come in pregilo, l'1,4 lo cede Mediobanca, l'1,1 Parmalat ma anche Autogrill, l'1% è il calo di UbiBanca, lo 0,90 quello di Buzzi Unicem, lo 0,70 quello di Luxottica del Monte dei Paschi. Mediaset. Sì, Mediaset è andata bene, peraltro è dalla scorsa settimana che i titoli, soprattutto quando la borsa va su, tendono a far meglio del mercato, infatti è dalla scorsa settimana che gli investitori scommettono su una ripresa della raccolta pubblicitaria, secondo quanto indicato anche dai vertici della società. Comunque oggi, a riaccendere un po' l'attenzione sul titolo, è stato un report di Barclays molto positivo su Mediaset, in particolare gli analisti di Barclays hanno puntato lì indice sul valore della Pay TV che il mercato valuta praticamente zero e che invece è superiore assolutamente allo zero, e poi hanno scommesso su una crescita attorno al 2% della raccolta pubblicitaria e quindi hanno rammentato che il rendimento del dividendo delle azioni Mediaset dovrebbe essere diciamo più appetibile, senza dubbio più interessante rispetto ai concorrenti del settore media. Ma hanno definito anche un obiettivo di prezzo? Infatti è stato indicato un obiettivo di prezzo a 6 euro, i titoli hanno chiuso a 5,19. Vabbè, resta tutto il nostro scetticismo sui report, qualunque sia il titolo in oggetto e chi questi report li fa. Non è un problema di persone, di nomi. Allora, andiamo avanti. L'Automatica, anche qui il rialzo non è forte come quello di Mediaset, però più 0,90, Campari più 1,4 abbiamo detto, Bulgari più 1%, l'Automatica. Sì, per quanto riguarda l'Automatica oggi diciamo i titoli hanno catalizzato l'attenzione, soprattutto perché in primis si sono diffuse indiscrezioni che fosse in arrivo un bond, la notizia poi effettivamente è stata un'obbligazione. Sì, è stata confermata, verrà emessa un'obbligazione per investitori istituzionali da 750 milioni, un'obbligazione a 7 anni, e le richieste pare che siano state già abbondantemente superiori. Certo. Appunto all'offerta, quindi mancano i dati ufficiali, ma pare che tutto proceda per il meglio per la società. Peraltro anche la stessa Moody's ha già assegnato rating, ha comunque confermato i rating sull'Automatica anche alla luce di questa operazione. Ancora i titoli che più hanno perso oggi invece, Fiat, Exor da un lato meno 2,7, Fiat meno 1,6. Sì, Fiat è stato debole tutto il comparto dell'auto europeo, poi come al solito c'è nei giorni in cui il mercato corregge spesso i titoli ciclici o quelli che hanno corso di più, come Fiat appunto, tendono a far peggio. Peraltro su Fiat oggi ha parlato anche a Londra l'amministratore delegato Marchionne, ha parlato alla comunità finanziaria londinese, dove secondo indiscrezioni raccolte appunto dalla nostra agenzia avrebbe confermato gli obiettivi per il 2009 e per il 2010, ha inoltre indicato che il gruppo dopo un anno comunque difficile è più forte. Le parole evidentemente non sono stati gran supporto. Però insomma questo è quello che Marchionne ha detto, ma Exor meno 2,7, diciamo che la performance di Fiat ha pesato anche su Exor, ricordiamo che è l'azionista, certo, di riferimento. Peraltro anzi sono circolati anche dei report, uno di Cassa Lombarda dove si raccomanda l'acquisto del titolo ritenendo che le azioni siano sottovalutate, mettendo in conto sia quanto vale Fiat e la partecipazione in Fiat, sia peraltro c'è stata una valutazione di tutte le società in cui Exor ha delle partecipazioni. Allora, io contesto i report e tu me li infili anche nei titoli che perdono, Eleonora. Vabbè, andiamo avanti. Invece, per quello che riguarda il Monte dei Paschi, oggi su Sole 24 Ore un'anticipazione sulle ipotesi di cessione di 50 sportelli a Intesa e altri 30-35 sportelli a Cari Parma o Barclays. Il titolo? Il titolo ha perso lo 0,7%, invece Intesa San Paolo è salita dello 0,17%. Peraltro Intesa è stato l'unico titolo tra le banche a maggiori dimensioni a Piazza Affari a chiudere in terreno positivo. Sembra a giudicare dal mercato che l'affare quindi l'abbia fatto Intesa San Paolo, che ricordiamo ha valutato ogni filiale circa 4 milioni di euro. E invece si sgonfia la bolla dei titoli dell'acqua, acque potabili meno 13%. Mediterranea Acque meno 8%, ma molti erano cresciuti dopo il via libera al decreto Ronchi sulla privatizzazione parziale anche delle municipalità dell'acqua. Il miglior titolo è Eutelia più 21,2%, perché ha scorporato e è messo in una controllata un ramo di azienda. Mondo Home Entertainment più 22%, Coin più 5,7%. Grazie, Eleonora Michele, Radio Corri Sole 24 Ore. E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia, in cui ci occuperemo da un lato di un accordo importante per il mondo dell'agricoltura tra il gruppo Intesa San Paolo e Confagricoltura, e dall'altro poi di questa alleanza annunciata entro fine d'anno che creerà il terzo gruppo delle costruzioni in Italia, alleanza tra i gruppi Todini e Salini, 15.000 dipendenti. Adesso avremo modo di parlarne con la presidente del gruppo Todini, Luisa Todini. Prima di tutto però un rapido aggiornamento ancora dalle borse. Alcuni di voi ci chiedono come va Wall Street, al 349-238-6666. Va come prima, nel senso che guadagnava mezzo punto, sta un po' riducendo i guadagni, più 0,25%, nonostante i buoni dati arrivati oggi dall'America sul fronte dei consumi, dei sussidi della disoccupazione e della fiducia dei consumatori americani. L'euro è sempre vicinissimo a quota 1,51. Siamo a 1,50 e 80 per la precisione, e ancora per quello che riguarda il petrolio, volete sapere, ha aperto a 76, viaggi intorno ai 76 dollari al barile. Oggi sulle materie prime la vera notizia l'ha fatta l'oro, che ha toccato per ben due volte, ha aggiornato i record storici. Tra l'altro lo ha fatto a 1180 dollari l'oncia sia a Londra che a New York. Diciamo quindi, primo tema della seconda parte, il settore agricolo in difficoltà, meno 20, meno 25, meno 30% i prezzi all'origine, quindi i prezzi dei prodotti sul campo. Delle volte gli agricoltori denunciano di dover lavorare e vendere sotto i costi, sotto il livello di costo. E allora, accordo oggi tra Intesa San Paolo e Confagricoltura, messa a disposizione di un plafond di 1 miliardo di euro destinato alle 500.000 imprese associate a Confagricoltura. E infatti Confagricoltura raggruppa i 2/3 delle imprese agricole italiane. Sentiamo l'importanza dell'accordo per voce dello stesso numero uno di Intesa San Paolo, Corrado Passera, al microfono della nostra Chiara Grandis. L'agribusiness, cioè tutto ciò che è legato all'agricoltura e alle sue filiere, è un settore che è un insieme di settori che quasi riguarda il 10% del PIL italiano. È un insieme di settori che hanno di fronte a loro sfide importantissime di integrazione a monte a valle con la distribuzione, di innovazione, di consolidamento. Abbiamo ancora troppe aziende troppo piccole per competere sui mercati internazionali. Quindi c'è un tema energetico e quindi nelle proposte nelle proposte che abbiamo messo insieme alla Confagricoltura abbiamo cercato di dare risposta sia a quelle imprese che in questo periodo continuano ad investire e a crescere, vedi l'energia, vedi gli altri investimenti tecnici e tecnologici, anche però a quelle aziende in difficoltà che devono affrontare il tema del finanziamento degli insoluti, il tema della non possibilità di far fronte nell'immediato alle rate di prestiti a lungo termine. E poi in particolare è stata data importanza allo sforzo di quelle imprese che vogliono aumentare la loro patrimonializzazione. In quel caso la banca interviene con ulteriori finanziamenti a lungo termine senza garanzie che rendono ancora più efficace lo sforzo di quegli imprenditori che credono nella loro azienda. Così Corrado Passera, e commento analogo, quindi soddisfazione anche da parte del presidente della Confagricoltura Federico Vecchioni, che ha sottolineato che oltre ad aiutare un settore, ripeto, in estrema difficoltà come quello del mondo agricolo per i prezzi dei beni prodotti, e, avete ragione a scrivere che però questa differenza non si vede sulla tavola, ne abbiamo parlato molte volte, non so cosa dire, meno 20, meno 25% per alcuni prodotti sul campo, prezzi invariati sulla tavola, lì qualcuno ci sta guadagnando, i grossisti, la grande distribuzione, non lo so, non riusciamo a scoprirlo più che altro. Ma dicevo, soddisfazione da parte di Vecchioni anche perché l'accordo ha un valore per migliorare la qualità del credito, lo ha detto sempre a microfono la nostra Chiara Grandis. La crisi in questo momento deve consentire di cogliere l'opportunità del cambiamento anche in termini di approccio al credito. Il credito è essenziale per lo sviluppo del sistema economico, un credito agricolo che si innova, che cambia, che va incontro ai nuovi fabbisogni delle imprese, deve superare la logica del prodotto e venire incontro al progetto, non solo per le garanzie reali a copertura degli investimenti, ma anche per le modalità di comprendere che cosa è avvenuto nel sistema agroalimentare del Paese, in termini di contributo al PIL, al prodotto interno lordo e in termini occupazionali. Così l'accordo tra Confagricoltura e Banca Intesa San Paolo. Alcuni di voi chiedono insistentemente notizie su quanto potrebbe durare Timothy Geithner, ossia il segretario del Tesoro e ministro dell'economia americano. Abbiamo letto anche noi di altre ipotesi. Evidentemente mettiamola così, la cattedra e sopra il dicastero di ministro dell'economia è un dicastero sempre molto delicato, non solo in Italia, anche nell'amministrazione Obama è oggetto di molte critiche di Timothy Geithner per essere considerato un po' debole come capacità di riforme e di incisività. Per ora però siamo fermi a questo, cioè alle accuse, alle speculazioni, alle anticipazioni che poi sono tutte da verificare, del New York Post, se non ricordo male, di ieri, che ipotizzava appunto una successione a breve proprio per quello che riguarda il numero uno dell'economia statunitense. E allora parliamo di fusioni di gruppi attivi nel settore delle costruzioni, perché dovrebbe essere addirittura d'arrivo il progetto di fusione tra il gruppo Todini Costruzioni e il gruppo Salini Costruzioni entro fine anno. Se abbiamo ben capito, la firma per la fusione dei due gruppi, e ripeto, a noi fa sempre piacere quando due gruppi italiani si uniscono, si strutturano, si rafforzano, e salutiamo quindi con plauso l'idea e ringraziamo la presidente del gruppo Todini Costruzioni, Luisa Todini, per averci raggiunto in collegamento. Presidente, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi. Restiamo sulla notizia e poi vediamo anche lo scenario. La fusione che dovrebbe arrivare a fine anno tra Todini Costruzione e Gruppo Salini, che gruppo genererà e come avverrà anche, come diciamo, quote partecipative? Il primo step non sarà nell'immediato una fusione, ma uno scambio di azioni, un acquisto di azioni da parte di Salini per poi immaginare una NUC e quindi una fusione. Ma in ogni caso, da subito nel consolidato si genererà il terzo gruppo industriale nel settore delle costruzioni, quindi insomma abbiamo l'orgoglio di creare un campione nazionale con 17.000 dipendenti tra l'Italia e il mondo, presente in oltre 20 paesi al mondo, molto complementare perché Salini da 70 anni è leader soprattutto nel mondo, in Africa, in particolare nella costruzione di centrali idroelettriche, ha una presenza minoritaria in Italia, mentre invece noi siamo molto presenti in Italia e molto presenti nell'est Europa, quindi è anche una di quelle integrazioni che salvaguardano al massimo la forza lavoro. E quindi complementari, lei ricordava il numero di dipendenti, tra l'altro se sommiamo il portafoglio ordini della Salini 5 miliardi con il vostro 1,2 miliardi, siamo a 6 miliardi e 2 di portafoglio ordini, e come fatturato complessivo il nuovo gruppo viaggerà intorno a quelle cifre? Oltre 1,2 miliardi, e posso già anticipare che il portafoglio ordini di fine anno avrà direi un buon aumento del 20-30% rispetto al numero che lei ha dato, perché soprattutto all'estero il settore è anticiclico e quindi abbiamo e stiamo acquisendo nuovo fatturato, quindi insomma è un gruppo che nel momento in cui si integra già cresce. Allora, la cosa interessante di questa operazione, visto che spesso abbiamo detto e invitato anche le piccole, medie e grandi imprese in un periodo come questo affrontare la crisi alleandosi, possono essere joint venture, possono essere fusioni, acquisizioni, accordi più generali, però insomma spesso c'è una difficoltà anche per, diciamo, tutto l'individualismo dell'imprenditore. Qui voi mettete assieme due gruppi che hanno il nome dei fondatori, per cui anche qui la presenza della famiglia è molto importante. Come siete arrivati così a un accordo che non le desse l'orgoglio e anche così l'identità e la sensibilità dei singoli componenti? Guardi, la storia dell'azienda Todini nasce con Todini, mio padre, che purtroppo scompare giovane all'improvviso quasi 9 anni fa, quindi io da quasi 9 anni sono azionista unica di questa azienda, e già ed è un po' un'anomalia nel settore delle grandi aziende di costruzioni afferire ad un unico azionista. Il gruppo Salini è un azionariato sempre familiare, anche se più variegato, con una storia sempre di azienda familiare, quindi intanto uniamo insieme queste due culture simili anche se diverse per posizionamento di mercati. Questa sarà la prima grande sfida, di unire le due nostre esperienze, le due storie delle nostre aziende, facendo sì che rimanga importante la presenza dei due azionisti e superando quelle che sono le logiche del chi ha il 51% chi ha il 49%. L'importante è che l'azienda cresca, che si dia sviluppo e prospettiva a tutte le famiglie che lavoreranno e che continueranno a lavorare per noi, e che da questo si possa creare un campione nazionale che possa poi acquisire altro e diventare sempre più grande. Non escludiamo crescita anche all'interno del mercato azionario o quant'altro. Ad oggi nell'immediato non è previsto, ma questo non è escluso, e guardiamo ad un mercato domestico italiano, europeo e internazionale, perché questa è la nostra storia. Quindi insomma si sono superate anche resistenze culturali? Esatto, guardi, questo il nostro settore da sempre è stato molto frammentato, che è stata un po' la forza e la debolezza del settore stesso. In questo momento anche più volte il vostro quotidiano di riferimento, il Sole 24 Ore, ha dedicato approfondimenti su come superare la crisi. Le integrazioni, e l'integrazione in particolare, è veramente anche una delle modalità a cui bisogna guardare per superare la crisi, e superare l'individualismo degli imprenditori che troppo spesso poi ha impedito la crescita. Credo che da questo punto di vista, mi scusi la presunzione, potremmo in qualche modo rappresentare un modello, quindi lo stiamo facendo con i più grandi istituti di credito nazionali che ci stanno accompagnando in questa operazione, e ci auguriamo che anche il governo guardi con attenzione a questo, non solo negli investimenti nel settore delle grandi opere, ma anche ad esempio cercando di rendere ancora più attrattive le integrazioni, per esempio aumentando quelli che sono gli sgravi fiscali già previsti in caso di fusione, immagino a dei crediti d'imposta, insomma. Se in questo momento due grandi aziende che hanno possibilità di poter lavorare quasi esclusivamente all'estero, ma decidono di investire molto anche sull'Italia, io credo che questo debba essere in qualche modo premiato. Allora, per concludere su questo, perché è un tema molto delicato, perché poi non basta dire agli imprenditori aggregatevi, fondetevi, acquisitevi e quant'altro, ci vuole anche un po' di terreno o di aiuto su questo. Allora, Le richieste sono, mi sembra di capire, da un lato al mondo bancario, perché operazioni del genere necessitano sempre, lo dico anche a chi scrive, al 349-238-6666, di un supporto, consulenza, accompagnamento del mondo bancario, da un lato. Dall'altro però anche al governo, perché se ho ben capito la richiesta è dire andiamo a incentivare chi si fonde, io aggiungo anche chi reinveste parte del capitale in azienda per ricerca e sviluppo, cioè creiamo dei percorsi virtuosi per chi fa quello che da sempre tutti dicono che gli imprenditori dovrebbero fare. Le richieste per il mondo bancario e per la politica. Ecco, dico, il nostro settore, mi scusi se interrompo, è uno di quei settori in cui si chiede continuamente all'imprenditore di reinvestire, è uno dei settori maggiormente capital intensive proprio, quindi da questo punto di vista insomma, ci aspettiamo che possiamo essere accompagnati al meglio. Ma le banche cosa chiedete voi come aiuto? Ma le banche intanto di aiutarci a capire come affrontare il futuro con una leva finanziaria giusta, adeguata a quelli che sono i momenti e soprattutto a quelli che sarà il nostro sguardo nel futuro. Noi oggi siamo presenti negli appalti più tradizionali, guardiamo con attenzione a quello che è il mercato delle concessioni in Italia e all'estero, soprattutto siamo presenti in Africa, in Nord Africa, nel Centro Africa, nell'Est Europa, nel Centro Asia, negli Emirati, quindi sono tutti ambiti settoriali in cui è estremamente interessante guardare al settore più redditizio delle concessioni, quindi essere accompagnati da grandi istituti di credito che ormai hanno anche un cappello imprenditoriale da questo punto di vista, per noi è il valore aggiunto da questo punto di vista, al di là di tutta la nostra storia e del know-how tecnologico. Non dimentichiamoci che il vero Made in Italy, anzi non il vero Made in Italy, il Made in Italy è anche la meccanica e le costruzioni, che poi insomma hanno reso grandi le nostre aziende, certo, nel mondo e il nome dell'Italia nel mondo, quindi un'ultima domanda. È giusto continuare a favorirlo. Un'ultima domanda, Presidente Todini, per quello che riguarda la sensazione, voi siete presenti in 12 paesi, il gruppo Serini in 15 paesi, ma quindi avete il polso anche di come si sta muovendo l'economia, soprattutto nelle aree in via di sviluppo, perché là c'è bisogno di costruire di più infrastrutture di interesse pubblico, ma anche privato. Si sta muovendo qualcosa, cioè notate che quanto a commesse, ordini stanno arrivando da aree medio orientali e dal sud-est asiatico? Beh, guardi, la maggior parte delle commesse che entreranno quest'anno sono in parte, sì, in piccola parte riguardano l'Italia, ma fondamentalmente riguardano l'estero. Essere posizionati su più mercati non c'è dubbio che ci ha garantito di non essere così a rischio come altri colleghi posizionati solo sull'Italia. Quindi qualcosa si sta muovendo e le cose molto positive è che stia lavorando all'estero, al contrario dell'Italia, che nel momento in cui si vince una gara di appalto c'è l'anticipazione sul lavoro stesso e c'è la revisione del prezzo, due argomenti che mancano totalmente in Italia in questo comparto delle grandi infrastrutture e che costringono le imprese italiane a finanziare lo Stato. Ecco, questo è un altro degli argomenti su cui forse varrebbe la pena dedicare una trasmissione intera. Vabbè, un'altra volta. Grazie intanto al presidente del gruppo Todini Costruzione Luisa. Todini, in bocca al lupo per la fusione con il gruppo Salini. Crepi, e speriamo che possiamo essere possiamo far venire voglia ad altri di integrarsi. Credo che del settore possa essere solo positivo questo. Vi ringrazio, buona serata. Noi ce l'auguriamo, grazie a lei. Arrivederla, buonasera. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata a voi in ascolto. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi.